di Torino. Questo è l'ultimo concerto che facciamo con questa formazione, con la banda alla batteria, quindi lo vogliamo dedicare a Orlando.